Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Anche il metabolismo ha i suoi nemici, meglio conoscerli per non sottovalutarli e rischiare di aumentare di peso. A Obiettivo Salute i consigli del dottor Massimo Gualerzi, cardiologo ed esperto di prevenzione e riabilitazione cardiometabolica. Le cose da fare sono sostanzialmente tre i grandi nemici. Il primo è quello di dormire poco di notte e andare a letto molto tardi. Al contrario, dovremmo sicuramente riposare di più, andare a letto non più tardi delle 10:30, perché durante la notte, passata bene e dormita bene, vengono prodotti quegli ormoni che facilitano il metabolismo, che sciolgono i grassi e che si anabolizzano, quindi che fanno aumentare la massa magra. Il secondo grande errore è ricorrere a delle diete ferree, cioè stare sempre a dieta, tenendo conto che il metabolismo, meno diamo calorie, meno diamo alimenti, più tende sostanzialmente ad abbassarsi. Quindi al contrario dovremmo stimolare il metabolismo mangiando cibi logicamente sani, e per fare questo la prima cosa importante è quella di fare una buona colazione. Terza cosa è quella di fare un'attività fisica appropriata, ma appropriata significa non solamente il dosaggio giusto, ma anche il tempo giusto. Abbiamo parlato più di una volta di cronobiologia, e quindi teniamo conto che anche per dimagrire l'attività fisica va fatta nel momento giusto. Quello che vi consigliamo è di fare attività fisica alla mattina, a digiuno, dopo aver bevuto il nostro classico bicchiere d'acqua con limone o aceto di mele, perché in questo momento l'attività fisica va a sciogliere i grassi venendo da una fase, diciamo, di digiuno prolungato, e quindi andando ad attingere le nostre energie dai nostri depositi e quindi andando a sbloccare anche il metabolismo. Questi sono i tre consigli per risvegliare il metabolismo. Il glaucoma, ladro silenzioso della vista, seconda causa di cecità nei paesi industrializzati, può avere una relazione con alcune patologie degenerative del sistema nervoso centrale, a partire da Alzheimer e Parkinson. A Obiettivo Salute il professor Luca Rossetti della Clinica Oculistica Università San Paolo di Milano. Recenti studi hanno dimostrato che il glaucoma e queste malattie neurodegenerative hanno in comune meccanismi di genesi e di diffusione della malattia, e questo lascia delle buone speranze per il futuro, in cui si potranno adottare delle terapie che sono in grado di ridurre la progressione della malattia, terapie simili a quelle che vengono utilizzate per queste malattie neurodegenerative. Oggi ci sono nuove terapie che si aggiungono a quelle attuali, che mirano a limitare l'avanzamento della malattia. Per saperne di più, ascoltate l'approfondimento del professor Rossetti sulle pagine di Obiettivo Salute. Per oggi è tutto, io vi aspetto in diretta Facebook in compagnia del dottor Mattia Cappelletti per darci tutti insieme una mossa e guadagnare forma e salute. Mi raccomando, seguitemi. La programmazione di Radio 24 continua come sempre con Melog. Noi ci vediamo tra poco in diretta Facebook e ci sentiamo domani come sempre a mezzogiorno, quando scocca l'ora della salute. Buona giornata da Nicoletta.